as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui, di nuovo dal Paese delle Rose. Oggi puntata dedicata al contratto nazionale dei metalmeccanici, la rottura della trattativa. Questa mattina abbiamo avuto un presidio a Caldera di Reno in cui siamo stati. Nella prossima puntata sentiremo le voci della strada, dei lavoratori che sono scesi in presidio. E poi insomma parleremo della vertenza anche la settimana prossima. Questo è un momento per noi metalmeccanici molto molto impegnativo. C'è stato lo sciopero generale della CGIL, ma adesso tocca a noi. Come voi avete ascoltato e sentito e letto sui giornali, in televisione, c'è stata la rottura. Ci sono stati circa 8 incontri che si sono svolti con Federmeccanica, tra FIM, FIOM, WILM e Federmeccanica. Sono stati tipo 6 mesi di confronto e purtroppo la trattativa si è interrotta. Si è interrotta perché Federmeccanica non solo ha rigettato tutte le proposte che c'erano in piattaforma. Ricordo a tutti che questa piattaforma che è stata presentata è stata votata dalla stragrande maggioranza dei metalmeccanici italiani che aderiscono a sono sotto Federmeccanica, chiaramente. E dunque, questa è anche, dal mio punto di vista, una mancanza di rispetto verso tutti quei lavoratori che hanno votato quella piattaforma, e i padroni, dimostrando un'arroganza che non si è mai vista. Poi racconteremo anche qualcosa che è successo a Bologna che fa capire che c'è un'arroganza padronale e soprattutto anche dei dirigenti che sono al servizio dei padroni, che non ha uguali nella storia. Forse perché siamo troppo deboli, forse perché oggi non ci sono più gli scioperi e i picchetti di una volta, questo è da ragionarci. Sicuramente in questo momento, sia di problemi geopolitici, problemi di guerra, e problemi di debolezze politica, secondo me più che sindacale, perché c'è una debolezza all'interno della politica che fa paura, nessuno si occupa dei lavoratori fondamentalmente in Parlamento, i partiti che sono al fianco dei lavoratori sono molto molto piccoli e non hanno nessuna influenza reale di massa in Italia. C'è un attacco al sindacato che arriva da ovunque e questo fa sì che i padroni alzino la testa e hanno presentato una contropiattaforma che ha fatto sbroccare il tavolo sindacale e c'è stata la rottura. Questa rottura è avvenuta proprio dalla parte sindacale, bisogna dirle queste cose. E come hanno reagito i sindacati? Hanno reagito proclamando un blocco di straordinaria flessibilità, che nelle aziende dove bisogna lavorare è una cosa che fa molto molto male, ma 8 ore di sciopero che sono stati articolati nelle singole aziende, 8 ore che saranno svolte in tutte le aziende italiane, come decideranno più opportuno sui territori che le RSU degli stabilimenti. Martedì c'è stato, oggi c'è stato un presidio davanti alla Bonfiglioli in cui sono arrivati anche altri lavoratori di altre aziende, e ripeto che poi martedì prossimo ascolteremo le voci di questi lavoratori. Ci sono stati altri presidi fatti in altri posti a Bologna e poi ci saranno altre ore di sciopero che saranno fatte con un presidio finale, penso nel mese di gennaio, sperando che i padroni ripensino e inizino a capire che devono discutere su una nostra piattaforma, non presentarne una loro. Ecco, adesso ascoltiamo un bellissimo pezzo e poi continueremo la nostra discussione su quello che sta accadendo nelle fabbriche italiane. Faccio schifo come al solito, perché cosa c'è di diverso? fanvera, che ti adorno gli occhi, so se ci sentiamo. Possiamo. Ci sentiamo. Possiamo. Stupendo questo pezzo musicale, al Panerosi sempre tanta bella musica, bisogna dirlo, grazie anche a chi mi aiuta in questo. Iniziamo spiegando i temi di questa rottura, nel merito, entriamo nel merito. Allora, dobbiamo specificare che questa la piattaforma è presentata, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto anche altre puntate, andate sulla pagina podcast che... Purtroppo devo dire che ho avuto un problema. C'è stato hanno hackerato la pagina podcast dove il Panerosi aveva la sua, insomma, dove aveva il suo archivio, e facciamo fatica. Le ultime puntate non sono state in grado di svilupparle in podcast, e sarà un problema, speriamo di recuperare. Comunque potete comunque trovare le vecchie puntate in cui abbiamo parlato del contratto nazionale. Ora facciamo parliamo delle cose più importanti, no? Chiaramente la rottura principale è che nella piattaforma presentata da FilmFiom e Wilm ci sono 280 euro di richiesta, ma non solo sono tantissime, anche perché c'è la clausola di salvaguardia, adesso la spieghiamo un attimo, per i padroni, ma loro lamentano anche il fatto che nel corso del scorso triennio 21-24 è stato ottenuto dai lavoratori metalmeccanici 320 euro alla fine mensili lordi, chiaramente al quinto livello, perché grazie alla clausola di salvaguardia che faceva recuperare una buona parte dell'inflazione, non tutta purtroppo, altrimenti sarebbero stati molti più soldi. Sapete benissimo, il Panerosi è per il recupero totale, per la scala mobile totale, più i soldi che noi facciamo guadagnare, più il recupero in scala mobile. Però diciamo anche un recupero parziale ha fatto sì che da un aumento di 100 euro che doveva essere, che era stato stabilito nel 2021, siamo arrivati a 320 euro, e per il prossimo triennio stiamo chiedendo 2024-2026 280 euro più la clausola di salvaguardia. Questo chiaramente i padroni sostengono che non è possibile. Dicono che c'è la crisi, dicono che in questo momento storico non si possono chiedere tutti questi soldi, e nella loro contropiattaforma cosa dicono loro? Vogliono un minimo aumento dell'IPCA, automatico anche, e questo lo precisiamo subito, sarebbe un problema enorme, perché fondamentalmente parlando che loro non sono disposti a discutere di altri soldi, cioè della ridistribuzione della ricchezza fondamentalmente prodotta in questo paese, ma sono disposti solamente a livello nazionale a ragionare su un minimo aumento di una parte dell'inflazione automatico e non dando anche altri soldi, stanno distruggendo il contratto nazionale. Questo bisogna precisare, perché la contropiattaforma di Confindustria, di Federmeccanica, è molto subdola, perché da una parte strizza l'occhio su un possibile automatismo, che sanno che molti d'accordo all'interno dei metalmeccanici. D'altra parte però dicono solo questo piccolo aumento automatico, poi per il resto non si discute in azienda. Vogliono colpire il contratto nazionale duramente, lo vogliono colpire perché sanno benissimo che tantissimi paesi, purtroppo, è già così, tantissimi paesi europei e nel mondo il contratto nazionale non esiste. Esistono degli aumenti minimi che vengono dati in base all'inflazione e poi la contrattazione si fa in azienda. Questo per noi in Italia sarebbe devastante. Non sarebbe devastante solamente per le piccole aziende metalmeccaniche, in cui non avrebbero più nulla, non si potrebbe più ragionare nemmeno più dei loro diritti, delle loro capacità di sviluppare una propria di sviluppare qualcosa, perché lì non si riuscirebbe a fare la contrattazione interna, ma colpirebbe anche le grandi aziende, i lavoratori delle grandi aziende, perché nel momento in cui in Italia sparisce il contratto nazionale, sparisce un minimo su diritti e salari condivisi da tutti, anche chi è forte farebbe fatica a vedere la propria situazione migliorare, ma avrebbe intorno a sé il deserto sindacale di diritti ed economici, e questo creerebbe una grossa difficoltà. Solo poche aziende riuscirebbero a salvarsi da questa morsa infernale che ci stanno preparando i padroni, e questa cosa qui è inaccettabile per la FIOM-FIM Will, soprattutto anche perché in Italia, rispetto ad esempio alla Germania, dove questo accade in parte, non abbiamo tantissime grandi aziende, ma l'80% delle aziende metalmeccaniche italiane, ma non solo, sono fatte di piccole aziende. Questo sarebbe devastante. Ora, vogliamo subito dire che per quanto riguarda la crisi, effettivamente la cassa integrazione morde. Calcolate che solo a settembre ci sono stati 44,9 milioni di ore di cassa integrazione. Calcolate che c'è stato un aumento rispetto ai mesi precedenti dell'84%. Solo a Bologna, le aziende metalmeccaniche che nel 2024 hanno richiesto un ammortizzatore sociale sono 267 nell'industria e 229 nelle aziende artigiane, per un totale di 16.173 dipendenti coinvolti. Dunque c'è la crisi in Italia, è vero, però cosa facciamo? Ci riduciamo i salari? Non siamo disponibili a non aumentare il salario? Guardate che quando la FIOM e i metalmeccanici chiedono gli aumenti salariali, costringono in un certo senso l'azienda ad investire sulla qualità del lavoro. Questa è una delle cose più importanti, una delle azioni più importanti che io ho visto nella mia azienda dove lavoro, che abbiamo sempre chiesto di più, abbiamo sempre chiesto di abbattere la precarietà, abbiamo sempre chiesto di investire sulla sicurezza, abbiamo sempre chiesto salari più alti, di avere quattordicesimi, premi di risultati. Ha fatto sì che l'azienda ha dovuto per forza di cose investire sui prodotti ad alto valore aggiunto dove ha potuto, e sicuramente ha dovuto trovare delle soluzioni alle nostre richieste. Ma soprattutto c'è un concetto che non possiamo far passare, che la crisi la dobbiamo pagare noi lavoratori metalmeccanici, perché il rischio è questo. Il rischio è che davanti a una crisi geopolitica, davanti a una crisi energetica, davanti a una crisi anche ambientale, gli unici a cui sarà richiesto di pagare la crisi saremo noi, che siamo già molto molto in difficoltà, perché abbiamo un'inflazione che mangia i nostri salari, che anche i 320 euro che abbiamo preso, noi, molti operai metalmeccanici mi dicono, noi non li vediamo questi aumenti, certo che non vengono visti, perché vengono mangiati mese per mese da un'inflazione galoppante, da un governo che non fa assolutamente nulla, anzi l'unico obiettivo che ha questo governo è quello di armare questo paese per mandare i soldati italiani in guerra, mandare le armi nelle varie guerre che stanno scoppiando in giro per il mondo, e questo è per noi inaccettabile. La nostra battaglia è una battaglia nel mondo metalmeccanico, ma è una battaglia che guarda anche più in là, anche a livello nazionale. È chiaro che noi stiamo combattendo anche verso contro un governo che fondamentalmente non sta facendo un piano industriale metalmeccanico e non gli interessa fondamentalmente, tranne che l'industria delle armi, che chiaramente sta andando abbastanza bene, anche se poi la stragrande maggioranza delle armi l'Italia, voglio sottolineare, li compra dagli americani, dall'estero. Dunque i soldi nostri, delle nostre tasse, i tagli alla sanità, il fatto che noi non ci possiamo curare, il fatto che noi dobbiamo pagare tasse altissime per mandare i nostri figli a scuola, tutte le tasse che ci fanno pagare, poi vanno a finire in realtà nelle tasche di chi produce le armi, e noi non siamo i più grossi produttori di armi al mondo. Le armi che noi mandiamo per la stragrande, o che acquistiamo per la stragrande maggioranza, vengono acquistate fuori dall'Italia. Dunque io sono contro l'industria bellica, chiaramente sono per l'industria della pace e ambientale, però è chiaro che anche chi sostiene che servono i soldi dati per ricostruire l'esercito italiano, per comprare armi, creano un moltiplicatore economico, è un errore enorme. Voglio ricordare a tutti che studi dell'Istat dicono che un miliardo di euro investito nelle armi producono 3.000 posti di lavoro, invece un miliardo investito nella sanità produce 14.000 posti di lavoro, e più fa bene alla nostra salute. Per farvi capire questo governo quanto stia sbagliando e quanto siamo servi della NATO. Detto questo, torniamo alla nostra piattaforma. Chiaro che noi chiedevamo un piano industriale, ma chiedevamo anche regole restringenti sui contratti a termine e di somministrazione, perché oggi la precarietà morde più di prima. Per non parlare della questione degli appalti, che in realtà sugli appalti Federmeccanica era disposta anche a venirci incontro su alcune richieste, chiaramente perché la situazione delle sicurezze sul lavoro è sempre più drammatica, i morti sono sempre di più e gli appalti sono tra quelli che hanno le responsabilità più grosse. Chi lavora in appalto spesso è più a rischio nelle industrie metalmeccaniche. Ogni giorno vediamo incidenti che accadono per la stragrande maggioranza per l'interferenza di gruppi che lavorano all'interno della propria azienda, che sono o esterni oppure interni, ma comunque della logistica, ad esempio, che viene esternalizzato come tipologia di lavoro. Però queste cose non vanno bene, bisogna trovare una regola, perché per far arricchire i padroni e per dare la possibilità ai padroni di fare sempre più profitti si è creata una situazione di giungla degli appalti che penalizza tantissimo i salari, i diritti e la sicurezza dei lavoratori che vengono coinvolti in questa esternalizzazione. E dunque dobbiamo lottare per questo, oltre che per il salario. Voglio dire, io lo dico spesso ai miei colleghi e ai miei compagni di lavoro, che il salario di 280 euro è importante fare la battaglia, ma precarietà e appalti e sicurezza sul lavoro sono questioni fondamentali. Anche la parità di genere per quanto riguarda il livello economico, voglio ricordare che il contratto nazionale anche su questo è una garanzia, perché se diamo la contrattazione interna la stragrande maggioranza del salario, vedremo che troveremo delle grosse differenze. Nei contratti interni vediamo come lì si gioca purtroppo una brutta partita in Italia, perché vediamo che su quel salario in realtà la differenza di genere purtroppo pesa tantissimo. Chiaro, dai super minimi, premi di risultati legati a tanti indicatori e fattori, basta pensare alla presenza. Oggi il leitmotiv degli imprenditori è quello di dare dei premi di risultati legati alla presenza, e chiaramente le donne spesso sono quelle più svantaggiate su questo, e dunque una penalizzazione economica molto molto importante. I padroni ci rispondono che non ci sono soldi, che sono tutti, c'è la cassa integrazione. Però analizziamo un po' quello che viene fuori da un'analisi sui bilanci. Allora, nel 2019 gli utili delle industrie italiane metalmeccaniche sono stati di 15 miliardi di euro, mentre nel 2022 sono stati di 26,2 miliardi netti. La quota del personale, questo è importante, è diminuita dal 66,2% nel 2019 al 58,9% nel 2022, anche se c'è stato l'aumento, no, del contratto. Questo significa una cosa molto semplice, che i profitti delle imprese sono cresciuti più dei salari. Dunque va di sé, la richiesta è 280 euro, o comunque, anzi, come io stesso avevo chiesto, che fosse molto più alta, perché fondamentalmente ci mancano anche altri 120 euro, lo dico chiaramente, che non abbiamo preso nemmeno l'altra volta. 280 euro è anche, per quanto riguarda il recupero reale dell'inflazione, di quello che abbiamo fatto guadagnare. Non dimentichiamo che i compagni come me, che sono per la scala mobile, voglio essere chiaro su questo, non dicono mettiamo la scala mobile e non rinunciamo a chiedere i soldi, dei profitti che i padroni guadagnano. Sia chiaro, la ridistribuzione della ricchezza è un concetto, la scala mobile è un altro. Noi chiediamo tutte e due le cose, voglio essere chiaro con chi ogni tanto mi fa delle critiche dicendo che io, a me mi basta la scala mobile, ma non esiste proprio. E voglio anche ricordare una cosa, che una delle cose che secondo me lo schiaffo in faccia che ci hanno dato Federmeccanica è stata che subito dopo la trattativa il tavolo di rinnovo del contratto dei dirigenti tra Confindustria e Federmeccanica, con i dirigenti, c'è stato un aumento del 13%, pare a circa 10.000 euro annui sulla paga base. Più vanno aggiunti i premi variabili. Cioè, significa che nel momento in cui loro ci dicevano che non c'erano soldi per noi, gli stessi dirigenti si sono rinnovati il contratto, e Federmeccanica li ha rinnovati molto volontariamente, del 13% d'aumento. Cioè, ma... E voglio dirvi che in Italia, no, se andiamo a vedere Stellantis, l'amministratore delegato ha uno stipendio annuo di 40 milioni di euro. E un operaio, per guadagnare questa cifra qua, della missione del legato di Stella, deve lavorare 1350 anni. E non solo, ma Stellantis nel 2023 ha distribuito utili per 6,6 miliardi di euro agli azionisti, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi del 2022. Ma incassa la gente e licenzia. Avete sentito? In questi giorni ci stanno licenziando. Tavares poi si è dimesso, prendendo milioni e milioni di euro di buona uscita, no? Dopo il disastro che... Cioè, vanno in cassa integrazione le persone, ma lui prende delle buone uscite enormi. Allora, noi siamo in una situazione davvero dura. Siamo in una situazione non facile. Abbiamo il deserto politico davanti a noi, ma io credo che dovremmo ragionare su come continuare questa battaglia. 8 ore mi sembrano poche, dovremmo aumentare. Ci sono spinte dalle fabbriche sul contatto, soprattutto, in cui si chiede di fare della battaglia. Certo, dove c'è la cassa integrazione, io lavoro in un'azienda che purtroppo è in cassa integrazione, la situazione è un po' più difficile, i lavoratori sono preoccupati, soprattutto chi come me è legato moltissimo a quello che sta accadendo nel mondo, però non dobbiamo tirarci indietro. Ecco, adesso sentiamo un altro pezzo stupendo e poi ci salutiamo per le conclusioni. No feo sin cento, paiso astro mudo, batendo asas, una noite calada, venien en bandos con pez de veludo, chuparo sangue fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traenos el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada, eles comen todo, Eles comen todo y no dejan nada, nada de nada. Ecco qui, stupendo questo pezzo, uno dei miei pezzi preferiti. Dico solo una cosa, la chiudo molto velocemente questa puntata. Gli scioperi sono andati bene in questi periodi, ne stiamo facendo, però serve un salto di qualità. Serve un salto di qualità che deve essere sia di tipo sindacale che di tipo politico. Bisogna che i lavoratori ritornino a militare all'interno del sindacato. Non devono, io qua non sto pensando che devono credere nel sindacato. Credere è una parola che si addice a uno che serve. A noi non dobbiamo essere dei servi del sindacato, come non dobbiamo essere servi di alcuni per qualche partito politico. Non credere, avere fiducia, no, bisogna essere proprio partecipi. Bisogna cominciare a militare, bisogna ricominciare a frequentare le camere del lavoro, rientrare, come si faceva una volta, all'interno delle camere del lavoro e chiedere ai sindacati di partecipare, di trovare dei spazi di aggregazione e di costruzione di percorsi. Oggi la stragrande maggioranza dei percorsi di lotta vengono fatti dai dirigenti. Io faccio parte di un sindacato che convoca spesso assemblee di delegati, assemblee di dirigenti sindacali, in cui si decidono le battaglie da fare, non vengono fatte dentro una stanzetta le decisioni, non vengono prese così. Però c'è bisogno che i lavoratori partecipino in maniera diretta a queste battaglie. C'è bisogno, le camere del lavoro possono essere una soluzione, o fuori dalle fabbriche, all'interno delle fabbriche, sempre più assemblee in sciopero, luoghi in cui incontrare e far parlare, esprimere i lavoratori sulle battaglie da fare. Serve militanza, perché la sfida è enorme, cioè non è solo la sfida del contratto, qua c'è una sfida di cambiare la società, perché questa società è sempre nemica dei lavoratori e della classe operaia e di chi insomma non si può permettere di vivere di rendita, e lo vediamo, di dire sicurezza, tutte le norme che vengono fatte contro i lavoratori. Ma c'è anche un vuoto politico che va colmato in qualche modo. Bisogna spingere le organizzazioni politiche a crescere, nelle organizzazioni politiche, e che ci siano le organizzazioni politiche di massa e forti che veramente stiano a fianco e anzi un passo avanti ai lavoratori. Cioè non si possono stare 10 passi indietro. Non si può fare solo della solidarietà. Noi vediamo questi politici che vengono a farci della solidarietà davanti ai cancelli, quando una fabbrica è in crisi, in qualche manifestazione vengono con noi, però poi nei fatti non avviene quello che noi vorremmo, ossia delle leggi che sono a vantaggio dei lavoratori. Vediamo sempre e solo leggi a vantaggio dei padroni. Questo è inammissibile. Dobbiamo anche lì ritornare alla militanza, non servile verso organizzazioni politiche, ma trovare un'organizzazione politica rivoluzionaria che guardi i lavoratori e militare in queste organizzazioni, non delegare, ma militare, essere partecipi, perché ne va del nostro futuro, ne va della società in cui noi viviamo e ne va del mondo in cui vogliamo far crescere i nostri figli. La prossima puntata con i primi scioperi e presidi dello sciopero dei metalmeccanici. Orgulloso de estar. Orgulloso de...